Savonarola, il frate che spennellò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, quando le nazioni d'Europa guardavano all'Africa come a una terra di abbondanza e ricchezza, dove riversare masse di poveri e disoccupati, frutto di discutibili politiche degli stessi governi europei, e lette oggi da me quando le nazioni africane guardano all'Europa come a una terra di abbondanza e ricchezza, dove riversare masse di poveri e disoccupati, frutto di discutibili politiche degli stessi governi europei. D'altra parte, non è viaggio senza polvere, non è guerra senza lacrime, e comunque sia chiaro, per la ragion di Stato e di confini sono rovinati ricchi e poverini. Serio, capitolo 26, fino alla medulla delle sue ossa. Il giorno 17 febbraio 1496 fu un giorno solenne nella vita del Savonarola. A lui era stato concesso il permesso di predicare e offerto il cappello cardinalizio. Malgrado ciò, egli vedeva assai bene che la guerra col Papa andava divenendo ogni giorno più fiera e che il Borgia voleva il suo sangue. Con tale disposizione di animo incominciava il suo quaresimale sopra Amos e Zaccaria. Invero, se non si fosse trattato d'altro che della sua persona, egli si poteva offrire vittima volontaria alla pace della Chiesa, ma in lui veniva attaccata principalmente la Repubblica Fiorentina, di cui tutti lo riguardavano come la personificazione viva e parlante. Nel difendere se stesso, egli difendeva perciò la libertà e la religione d'un popolo intero che per sua opera, cacciando i tiranni, era tornato alla morale e alla fede cristiana. Di certo niuno poteva dubitare delle sue dottrine religiose, non quel Papa che gli offeriva la porpora cardinalizia, non quegli arrabbiati che odiavano in lui il severo riformatore dei costumi e non sapevano comportare il soverchio rigore della sua pietà. Non di meno ambedue s'erano uniti a nascondere la questione politica sotto una questione religiosa, sperando così di poterlo vincere più facilmente. Ed egli, sicuro della sua coscienza, veniva ora deciso a difendersi audacemente su questo terreno. La signoria aveva quel giorno dovuto prendere molti provvedimenti per impedire i disordini che si apparecchiavano. Gli arrabbiati s'erano disposti ad ammazzare il frate quando lo avessero potuto sorprendere per via. Sapeva sì anche dei sicari del Moro. I famigli degli Otto e alcuni confalonieri delle compagnie percorrevano quindi la città per mantenervi l'ordine. Quando il Savonarola uscì dal convento, lo schiamazzo e le grida di gioia del popolo che lo attendeva arrivarono al cielo e molti dei suoi amici armati subito lo circondarono per difenderlo da ogni insulto e lo accompagnarono al Duomo. Quel giorno tutte le passioni erano esaltate. Il Savonarola rompeva un silenzio di molti mesi che aveva in ognuno cresciuto il desiderio d'udirlo. Veniva a trattare un soggetto gravissimo e sapeva che la sua predica doveva essere inviata subito a Roma, alle cui offerte e lusinghe gli aveva quel giorno promesso di rispondere. Salito che fu sul Pergamo, egli stette col capo alto e volse intorno fieramente lo sguardo. I suoi occhi quel giorno fiammeggiavano come carboni accesi. La moltitudine era affollata in modo che niuno avrebbe potuto muovere un passo. L'attenzione e il silenzio erano tali che si udiva quasi il respiro dell'oratore, divenuto per la profonda agitazione assai più affannoso. «Io ho detto e pensato, innanzi che io vada, custodiam vias meas, cioè io riguarderò le vie mie se son nette da ogni contaminazione. Vedendo tanta contraddizione da tanti luoghi contro un omicciuolo che non vale 3 danari, io ho detto nel mio cuore, forse che tu non guardasti bene le tue vie, però la tua lingua ha fatto errore, ed ho le riguardate ad una, e certo trovai in quella parte la via essere tutta netta. Perché io ho sempre creduto e credo tutto quello che crede la Santa Romana Ecclesia, sempre a quella mi sono sottoposto e sottopongo. Io l'ho scritto a Roma che se ho predicato o scritto cosa eretica, sono contento emendarmi e ridirmi qua in pubblico. Sono sempre parato alla obbedienza della Romana Chiesa e dico che sarà dannato chi non obbedisce ad essa. Dico e confesso che la Chiesa Cattolica non mancherà mai fino al dì del giudicio. Ed a chiarire poi qual sia questa Chiesa Cattolica, son diverse le opinioni, onde io me ne riferisco a Cristo e alla determinazione della Chiesa Romana. dopo che il Savonarola ebbe fatto una dichiarazione così esplicita da non lasciar più dubbio d'alcuna sorte sulla cattolicità delle sue dottrine, venne alla parte più ardita di esse. Egli disse allora che sebbene la Chiesa sia nel dogma infallibile, non per questo si è tenuti d'obbedire ad ogni sorta di comando che ci venga dai superiori o anche dal Papa. Il superiore non può comandarmi contro alla costituzione del mio ordine. Il Papa non può comandarmi contro alla carità o contro al Vangelo. Io non credo che il Papa voglia mai farlo, ma quando lo facesse io gli direi: tu ora non sei pastore, tu non sei Romana Chiesa, tu erri. Anzi, io dico, ogni volta che si potesse vedere espressamente che i comandamenti dei superiori sono contrari a quelli di Dio e massime al precetto della carità, niuno debbe in questo caso obbedire. Ciò premesso, egli procede oltre e viene al suo fatto particolare per dire che non si crede punto obbligato ad obbedire a chi lo vuole allontanare da Firenze, perché tutta la città e fino le donnicciole conoscono che questo si cerca per solo odio politico e che risulterebbe a danno non solo della libertà ma anche della religione. Quando io vedessi espressamente che il mio partire d'una città fosse ruina spirituale e temporale del popolo, non obbedirei a uomo vivente che mi comandasse di partire. Sì, perché questo sarebbe contro i comandi del Signore, sì, perché presumerei che il mio superiore si fosse ingannato per false informazioni. O tu che scrivi a Roma tante bugie, che scriverai tu ora? Tu scriverai che io ho detto che non si debba obbedire al Papa e che io non voglio obbedire. Io non dico così. Scrivi come io ho detto e vedrai che non farà per te. Infatti la dottrina esposta dal Savonarola era tutta cattolica e per niente si allontanava da ciò che avevano detto San Tommaso e molti dottori e pontefici della Chiesa. Non di meno era tale che di poco alterandone le parole si poteva facilmente farla cadere nell'eresia e questo tentavano appunto i suoi nemici. Egli intanto ripigliava il filo della predica dicendo: «Io vorrei andare al porto e non trovo la via, vorrei riposarmi e non trovo loco, vorrei star cheto e non parlare, ma non posso perché il verbo di Dio è nel mio cuore come un fuoco, il quale se io non lo mando fuori mi arde la medulla delle mie ossa. Or suo Signore, poiché tu vuoi che io navighi in così profondo mare, sia fatta la tua volontà». Il Savonarola concludeva finalmente questa predica rivolgendo le sue parole prima ai giovani, che egli credeva quasi tutti buoni, e di poi ai vecchi, nei quali aveva assai minore fiducia. «In voi, o giovani, sono le mie speranze e le speranze del Signore. Voi governerete bene la città di Firenze perché non avete preso la cattiva piega dei padri vostri, che non si sanno spiccare dal reggimento tirannico, né sanno quanto è grande questo dono che il Signore ha fatto al popolo della sua libertà. Voi invece, o vecchi, voi state tutto il dia ai circoli e sulle botteghe a dir male, e con vostre lettere scrivete molte bugie fuori della città di Firenze, e perciò molti dicono che io ho conturbata la Italia, e questo mi è stato scritto anche in carte autentiche. O insensati, qui vos fascinavit non obbedire veritati, dove sono le squadre mie e gli danari da conturbare l'Italia? Io non conturbo Italia, ma bene annunzio che la deve essere conturbata. Io annunzio che i vostri peccati affrettano il flagello. Una gran guerra, o incredulo, ti farà lasciare la pompa e la superbia. Una grande pestilenza vi farà lasciare le vostre vanità, o donne. Popolo minuto e mormoratore, una grande carestia ti farà stare cheto. Cittadini, se voi non vivete col timore di Dio e non amate il governo libero, il Signore vi farà malcapitare e serberà solo ai vostri figli le felicità promesse a Firenze. Così finiva questa predica, nella quale il Savonarola restringeva come in un quadro tutto ciò che voleva dire nelle altre di quella quaresima. Le sue dottrine sono ardite, le accuse che muove contro Roma sono audaci, le parole con cui descrive il flagello che si avvicina sono parole di fuoco, ma nulla di ciò che gli dice può essere appuntato d'eresia. Noi dobbiamo anche ammirare la sua prudenza, che mai non gli permise di muovere sul Pergamo discorso intorno alla simoniaca elezione del Borgia o alla speranza del concilio, né gli fece fare allusione dal alcuna sorte alle offerte dal Papa ricevute. La sua generosa indole non gli permetteva di prendere vantaggio d'un fatto che, giovando solamente a lui, poteva seminare scandalo nella Chiesa. In tutto questo quaresimale noi troviamo il Savonarola sempre uguale a se stesso, essenzialmente cattolico, ma nello stesso tempo pieno d'un coraggio e d'un'indipendenza morale che pochi ebbero prima o dopo di lui. Non vi è cosa al mondo che lo spaventi, non vi è cosa che lo faccia retrocedere dalla sua via. Egli è solo a difendere la libertà del popolo, la libertà della propria ragione e della propria coscienza, ma pur tiene alta sul Pergamo la sua bandiera e sta fermo in faccia a tutti i principi d'Italia, in faccia alla corte di Roma che fulmina malconsigliati brevi, né teme i veleni e i pugnali degli arrabbiati che nelle vie in chiesa sul Pergamo stesso lo minacciano.